do il benvenuto, ringrazio i nostri ospiti. Ne approfitto di questa occasione per ricordarvi che questa è una settimana abbastanza intensa per la biblioteca, perché iniziamo questa serata con la finestra sui giornali, il libro appunto scritto a quattro mani da Lorena Monforti e Giancarlo Riccio, e che ci racconta la storia della cronaca, la storia della cronaca locale con dei focus precisi, e che diciamo è stato anche citato nel Corriere della Sera. In questi giorni c'era un articolo molto interessante. Non è l'unico libro di cui appunto avremo occasione di parlare questa settimana, perché ci sarà anche poi Giovanni Perez, che sarà con noi giovedì, cercando la verità, alle ore 17.30 in biblioteca. Domani invece avremo Dolomiti di Piombo, quindi una storia romanzata che riguarda il periodo delle bombe e degli attentati. Quindi stiamo ripercorrendo, facendo un percorso nella cronaca locale, quella diciamo anche più intensa. E infine poi venerdì, in questa sala, alle ore 18, avremo un altro appuntamento, sempre organizzato in un'associazione con l'Istituto di Psicosintesi, e sarà con noi Claudio Disè, autore del libro La scoperta di sé. Ma tornando all'appuntamento di questa sera, volevo ringraziare ancora una volta i nostri ospiti, appunto Giancarlo Riccio, Lorena Monforti, il professor Günter Pallaver e l'avvocato Arnaldo Lone, che si attenderanno nella presentazione di questo libro, e siamo anche molto contenti di averli con noi. Nell'attesa che arrivino anche altre persone, vi cederei subito la parola per un'introduzione. Avete deciso chi lo farà? Parla Giancarlo Riccio, ok. E vi invito anche a vedere una breve vetrina che abbiamo portato qui, e venirci a trovare in biblioteca, siamo al piano terra, e lascio anche questi promemori eventualmente per le prossime iniziative. Vi ringrazio ancora. Pronto? Sì, buonasera a tutti, scusate la voce, ho notato molti sorrisi tra di voi, che sono molto aumentati quando hanno capito che l'influenza parlerò poco, e quindi confido che sarete accontentati e ascolterete molto, molto di più i relatori di questo incontro, che sono la coautrice del libro Lorena Monforti, sono Günter Pallaver, un giornalista di lungo corso, e ho scoperto mezz'ora fa Deus Ex Machina di almeno 400 allievi all'Università di Innsbruck, dove ha una cattedra di prestigio. E infine, ma non alla fine, Arnaldo Lone, bibliofilo, avvocato, appassionatissimo di libri e di stampa, che Lorena e io abbiamo pregato di intervenire, come del resto lo stesso Günter, con una introduzione straordinaria. Vi porto i saluti Lorenzo, del direttore del Corriere Fontana, che ho sentito in questi giorni e che è autore con me della prefazione, e che ha voluto che questo racconto, attraverso una serie di interviste a giornalisti dei giornali locali di lingua italiana dal dopoguerra ad oggi, si riparasse soprattutto attraverso una serie di interviste e di testimonianze dirette, fermo restando il saggio di Günter, di cui siamo Lorena ed io molto orgogliosi e molto grati all'autore. L'auspicio di Fontana è quello che abbiamo subito fatto nostri durante la collezione delle bozze, Lorena e io. Cioè, se anche solo uno dei ragazzi, delle ragazze di qui, leggendo questo libro, avesse voglia, e speriamo anche spazio soprattutto, di fare questo mestiere che è molto cambiato in l'afterzeit, avremo fatto quello che volevamo fare. L'influenza c'è davvero, per cui siete fortunati, ascolterete di seguito come dire, riflessioni molto più interessanti. Nel frattempo ancora grazie di essere qui, buonasera. Di questo momento un attimo solo per ricordare che il libro che viene presentato questa sera rientra in una serie di pubblicazioni che hanno sotto il titolo di Spazio Libro ed è un'iniziativa dell'ufficio biblioteca, abbiamo qui con noi la nostra collega questa sera Lucia Piva, e è quindi una pubblicazione anche fortemente voluta per dare un quadro di quella che è la storia del territorio che da anni appunto viene anche promossa attraverso il sostegno delle pubblicazioni. Sì. Buonasera, ringrazio il pubblico qui in sala. Sono più forte. Non si sente. Per generosa. Sì. Allora, buonasera, ringrazio il pubblico qui in sala, ringrazio i nostri ospiti. Sente poco però, mi fa forse male. Sono io che... il microfono, no, un po' forse... Penso che sia regolato... Ora si sente. Sì, scusate. E ringrazio naturalmente i nostri ospiti, qui per parlare di Arnaldo Lohner, che hanno gentilmente accettato il nostro invito per la presentazione di questo libro. La finestra sui giornali, ringrazio la ripartizione di lingua italiana per aver reso possibile la pubblicazione, e ringrazio l'editore che non è presente qui fisicamente, ma va bene. Allora, la finestra sui giornali nasce da un'idea luminosa di Giancarlo Riccio ed è stato un progetto coinvolgente nato dall'esigenza di riempire quello che era uno spazio vuoto nell'ambito della produzione editoriale provinciale. E soltanto grazie alle lucidissime e dettagliate testimonianze dei giornalisti intervistati e coinvolti è stato possibile ricostruire un periodo frammentato e che oggi appare già passato remoto. È stato quasi uno scavo archeologico, fatto di reperti, testimonianze orali e ricerca di materiali ritrovati, che ha riportato alla luce la vita dei quotidiani Il Mattino e La Breve Avventura del Giorno. Confesso che lo avrei desiderato ancora più ricco di immagini fotografiche e addirittura corredato di disegni, ma l'editore ha preferito una veste più austera, pazienza. Fortunatamente ci è stata concessa libertà di azione ed è stato subito chiaro che questo non doveva essere un databook nozionistico. Per quello che ci riguarda, insomma, ci sono i veri ricercatori che si occupano di questo, e quindi niente grafici o infografica, ma piuttosto analisi e testimonianze dei professionisti coinvolti. E vorrei anche dire che questo libro, attraverso un'intervista particolare a Christoph Franceschini, che non è qui ma va bene, facciamo finta, appunto è un direttore di Salto e che ci ha permesso poi di arrivare al tempo presente ma anche al futuro, poiché Salto è un esempio perfetto di quotidiano online e anche di quotidiano indipendente, e che ha fornito un po' un'idea di come sta cambiando e stia cambiando il mondo dell'informazione nell'era di internet e dei social media. Ci auguriamo che nello scenario locale dei quotidiani siano sempre garantite le basi per un'informazione di qualità, fatta in modo corretto, e che è poi l'elemento indispensabile per un buon funzionamento di una società democratica. In questo libro abbiamo anche avuto modo di raccontare un modo diverso di fare informazione, e speriamo di averlo fatto in modo chiaro, con l'intento che gli scenari raccontati possano servire ai giornalisti del futuro che si trovano a dover gestire il proprio lavoro in un sistema di comunicazioni digitali che ha spazzato via i vecchi assetti. E infine concludo, scusate, io leggo perché non ho la capacità di oratoria dei nostri ospiti, ma appunto ho avuto modo di sfogliare questo rapporto del AGCOM, è una recentissima indagine sullo stato delle cose che ci riguardano direttamente, no? In Trentino Alto Adige risulta essere la provincia con il più alto numero di cittadini informati, e che vuol dire che il 95% della popolazione altoatesina si informa su di un mezzo di comunicazione, considerando radio, TV, quotidiani, cartacei e online, e anche internet. E questa è sicuramente una buona notizia. La notizia meno buona è che proprio in Alto Adige abbiamo visto emergere alcune posizioni di forza informativa da parte di alcuni soggetti privati. E mi riferisco al caso del gruppo Atesia, che è divenuto editore che al momento possiede le 4 testate più diffuse della regione, arrivando così a detenere la leadership assoluta nei quotidiani e nell'informazione locale. E ciò rappresenta una criticità in ambito informativo e potrebbe essere anche una minaccia a quel pluralismo che è uno strumento indispensabile. Concludo augurandomi appunto che il libro possa risultare interessante. Non abbiamo copie da vendere, e scusate questo spazio, ma al momento appunto l'editore non ha ancora distribuito il libro. Passo adesso la parola a Gunther Pallare. Buonasera anche da parte mia. In effetti i giornali quotidiani di lingua italiana, come potrebbero anche essere quelli di lingua tedesca, ovviamente rispecchiano la storia di questo paese, di questo territorio, ma non solo, rispecchiano anche il sistema politico di questo paese. Il sistema politico altoatesino è un sistema basato sul tentativo di trovare una soluzione del conflitto da un punto di vista dissociativo, che significa la separazione dei contendenti. Questo sistema ha portato a tutta una serie di aree divise, e tra cui anche i quotidiani. Abbiamo quotidiani molto semplici di lingua italiana e anche di lingua tedesca. Allora aumento il volume. No, sono io. Perché vedo che... Sì. Ci sono ovviamente, come abbiamo partiti italiani e tedeschi, abbiamo associazioni di lingua tedesca e italiana, abbiamo anche i media di lingua tedesca e italiana, e sappiamo che i media, come appena citato Salto, quelli bilingui, sono una piccola nicchia, e questo vale anche per i new media, che una volta insomma si parlava. Comunque abbiamo questa separazione anche dal punto di vista mediatico. I media di lingua italiana rispecchiano appunto questa storia, rispecchiano il sistema politico, e si potrebbe anche dire che seguono il corso della storia, di eventi. Dopo il 45 i media italiani sono praticamente, rappresentano in un primo momento l'antifascismo, perché insomma l'Alto Adige è il prodotto del CLN, e poi diventa praticamente la voce anche governativa, perché in quegli anni, fino al secondo istituto di autonomia, abbiamo sia da parte di lingua tedesca e italiana un quotidiano, praticamente un quotidiano, e attorno a questo quotidiano si raggruppa il gruppo italiano e anche quello tedesco. E questo è praticamente una fase che si protrae fino agli anni 60, gli ultimi anni 60, con il pacchetto, no? Allora abbiamo praticamente un sistema dove in un primo momento abbiamo questa concentrazione su un quotidiano di lingua italiana e anche di lingua tedesca, e abbiamo questo quotidiano che è anche la voce del governo. Praticamente tra questo conflitto centro e periferia, il quotidiano, l'Alto Adige, rappresenta gli interessi del centro. E abbiamo anche il problema del pluralismo, perché sia nel mondo della lingua italiana che in tedesca abbiamo un quotidiano, e gli altri media esistenti, come la radio, che è importante ovviamente, televisione non ce n'era ancora, insomma il contropeso era assai ridotto. Vediamo che questo pluralismo incomincia a fiorire con la fine del contenzioso. Allora, negli anni, nel 68, nel pacchetto, e proprio in quegli anni arriva il pluralismo nel mondo dei media italiani, arriva il Giorno, no? Il primo tentativo di pluralizzare questa situazione mediatica. Questo significa non solamente nel mondo della lingua italiana, ma anche quello tedesco. Abbiamo praticamente un processo che si protrae dal 45 agli anni 60, dove insomma incomincia ad aprirsi il sistema mediatico. Quello che i media di lingua italiana, come quelli tedeschi, fino al giorno d'oggi, non più come una volta, ma comunque rimane questa tendenza, è anche questo valore, questa funzione identitaria. Il gruppo di lingua italiana si raggruppa attorno al quotidiano Alto Adige in una prima fase, poi anche attorno agli altri quotidiani, da un punto di vista appunto identitario. Ancora nel 2011 l'Alto Adige parlava appunto della bandiera di una italianità da difendere. Questo è già un riferimento a un cambiamento, perché dopo il 45 il quotidiano Alto Adige era un punto di riferimento identitario, però da un punto di vista piuttosto offensivo, mentre dopo il pacchetto secondo studio di autonomia, secondo me l'Alto Adige e poi gli altri quotidiani si presentano più che altro da un punto di vista, cioè di salvaguardare questa identità del gruppo linguistico da un punto di vista difensivo. Difendere appunto come viene attuato il secondo statuto di autonomia, oppure anche dando voce al cosiddetto disagio italiano. Vediamo poi che i prossimi due importanti quotidiani, come il Mattino dell'Alto Adige, che incomincia a lavorare nel 1988, e poi il Corriere dell'Alto Adige nel 2004, questi sono due quotidiani che sono non sono praticamente il prodotto del corso della storia verso l'autonomia, dell'attuazione dell'autonomia, ma sono figli dell'autonomia. In questo senso hanno avuto un altro atteggiamento verso la realtà sociale dell'Alto Adige, più flessibili, più aperti, più insomma più curiosi. Ovviamente anche l'Alto Adige ha ripreso questo filo di informazione che appunto i due nuovi quotidiani hanno intrapreso. Alla fine si potrebbe dire anche, potrebbe dire tante cose, si potrebbe anche, quello che a me personalmente interessa, perché abbiamo diversi sistemi mediatici, in Italia si parla di sistema mediatico polarizzato pluralista, poi abbiamo il sistema mediatico democratico corporativo che è il centro Europa e i paesi nordici, e poi abbiamo il sistema liberale a cui appartengono paesi come la Gran Bretagna, l'Irlanda, gli Stati Uniti. Ecco, quello che si potrebbe analizzare, quello che si vede poi anche, che il sistema italiano mediterraneo e il sistema centroeuropeo, che in vari punti si differenziano, qui in Alto Adige non esiste questa differenza. Sia i quotidiani di lingua italiana che quelli di lingua tedesca, da un punto di vista della logica mediatica, sono similissimi. Alla fine possiamo ancora dare un'occhiata appunto a questo cambiamento radicale che c'è stato dal 45 in poi, non solamente per quanto riguarda il pluralismo mediatico, che è ovviamente uno dei principi fondamentali di ogni democrazia, ma anche per quanto riguarda appunto l'atteggiamento verso l'autonomia, oppure anche l'apertura verso i rispettivi gruppi linguistici. L'UNESCO nel 1976 ha fatto una dichiarazione importante riguardo la funzione dei media nel mondo, in cui sottolinea il fatto che i media hanno una funzione importante per la pacificazione dei conflitti, che sono chiamati a far sì che i pregiudizi vengano eliminati e che appunto si costruisca una fiducia, specialmente anche in zone con gruppi linguistici diversi. Credo che questa sia oggi la funzione principale dei quotidiani di lingua italiana, di quotidiani di lingua tedesca, ma anche di tutti gli altri media che operano in questa terra. Grazie. Ditemi se si sente bene. Sì, bene. Io desidero precisare che la mia è una condizione un po' anomala qui, perché io non sono né uno studioso della stampa né uno storico della stampa, io sono semplicemente un lettore della stampa locale e quindi io vengo a fare alcune riflessioni come lettore. Ha già detto molto bene anche nel suo scritto il dottor Palaver che il giornale locale è una fonte di informazione e che l'informazione che dà serve anche a formare l'opinione, ad orientare l'opinione, aiuta anche a prendere delle decisioni. Per esempio, quando siamo alla vigilia di una scelta elettorale, la stampa locale che conosce i candidati, che conosce le loro idee, o almeno le dovrebbe conoscere, dà certamente un contributo orientativo. Io però come lettore voglio parlare di un'altra funzione fondamentale della stampa locale, che è una funzione di compagnia. Il giornale locale è uno strumento di compagnia. Noi viviamo nella società che il grande sociologo Zygmunt Bauman, scomparso l'anno scorso, in suoi numerosi libri, in sue numerose opere, ha definito come la società liquida, una società dove tutto scorre velocemente e scorre in superficie, dove c'è poca profondità, dove gli incontri della gente sono incontri provvisori e superficiali, come dicevo. Una società quindi che indubbiamente è una società che crea solitudine. Io credo di non dire nulla di nuovo, posso rappresentare il banale, ma credo che tutti sappiamo che la nostra società è una società in cui c'è molta solitudine. La gente è sola, la gente si parla poco, la gente si incontra poco. E allora il giornale locale ha questo compito, secondo me, fondamentale di dare una specie di legame di collegamento tra la gente. È uno specchio della vita, è uno specchio della vita reale. Noi nel giornale locale leggiamo le piccole storie, a volte tragiche e tristi, qualche volta anche liete, della nostra comunità. Noi abbiamo un contatto con la nostra comunità. Quando io entro in una casa, magari di persone che vivono sole, di persone anziane, e vedo il giornale locale sul tavolino, capisco che c'è una vicinanza, capisco che c'è un collegamento, capisco che c'è un legame. È vero, c'è internet che ci manda velocemente le sue comunicazioni, ci manda l'ultima notizia dell'ultimo minuto, ma è una voce fredda, signori. È una voce, intanto, che ovviamente bisogna saper padroneggiare, ma è una voce, non è una voce di calore, non è una voce di vicinanza. Il giornale è una cosa vecchia, è una cosa antica, però oggi, anche oggi, è questa vicinanza che è una tradizione, una vicinanza che naviga nel tempo, una vicinanza che indubbiamente si avvicina, una vicinanza che indubbiamente si avvicina, è la voce della comunità. Ma poi, quando io parlo di vicinanza e di così, diciamo, di solidarietà quasi, di aiuto a conoscere il mondo in cui viviamo, il giornale locale è quello che ci descrive il mondo in cui viviamo, quello non ce lo descrive il giornale nazionale. Il giornale nazionale dà grandi notizie, ci parla di cose che avvengono in tutto il mondo, ma il giornale locale ci parla di noi, descrive il nostro mondo, questa è la grande funzione tra le altre. E non dimentichiamo anche che il giornale locale è anche formatore, creatore di cultura. Questa è una funzione, noi abbiamo bisogno di cultura. E il giornale locale ci dice che ci sono delle conferenze, che ci sono delle mostre, che ci sono delle attività artistiche, ci informa su questa possibilità culturale che la nostra piccola città, il nostro piccolo mondo ci offrono. E se noi ne approfittiamo, noi usciamo di casa e siamo al Teatro Cristallo in 5 minuti. Non occorrono, se noi vogliamo vedere la grande mostra a Roma, in qualche museo nazionale, dobbiamo viaggiare, dobbiamo spendere, dobbiamo viaggiare, dobbiamo avere molto tempo, ma soprattutto parliamo delle persone anziane, categoria alla quale io mi onoro di appartenere, anche se tornerei indietro volentieri, ma parliamo delle categorie anziane che si stancano a viaggiare, che hanno delle capacità anche ridotte di concentrazione per un evento. E allora la piccola mostra locale, il concerto locale, la manifestazione locale sono strumenti di cultura, sono elementi apportatori di cultura. Poi consentitemi di dire una cosa: il giornale locale ci dà anche le notizie sulle persone che noi conosciamo, che incontriamo per strada, che stimiamo o magari che non stimiamo per nulla, ma ci dà queste notizie e ci parla di loro quando se ne vanno. Io ricordo il giornale Alto Adige, il servizio molto bello che fece quando morì l'avvocato Claudio Emmer, un grande protagonista della vita cittadina, una persona di grande rilievo. E quindi il giornale locale ha dato un contributo di conoscenza e di ricordo fondamentale. E poi consentitemi di dire, può sembrare banale, ma i vecchi sulle panchine che hanno quasi tutti il giornale locale, io li vedo raramente col giornale nazionale, i vecchi sulle panchine cosa vanno a cercare subito quando aprono il giornale? Vanno a cercare i necrologi, vanno a vedere chi se n'è andato e chi è rimasto. E guardate che questa non è una funzione da poco. La notizia del mondo è sulle persone che compongono questo mondo. Io dico, ma quando, mi auguro fra molto tempo, se sarò alla casa di riposo, io alla badante chiederò il giornale locale, chiederò di portarmi il giornale locale e se non riesco a leggerlo chiederò di leggermi il giornale locale, perché questo strumento nostro fa parte della nostra vita. Voglio dire ancora, ripetendo quello che ho già detto, la vita reale nel luogo in cui viviamo, noi abbiamo bisogno di sentirci presenti nel luogo in cui viviamo, perché questa è una società di solitudine. Come ho già detto, io credo che la società dell'Ottocento, con tutte le grandi differenze di carattere sociale, di carattere economico, fosse meno solitaria di questa, dove c'era anche a livello popolare una cultura popolare che era fatta di stare insieme. E questo stare insieme, guardate che è in parte naufragato, non c'è più. E allora il giornale è... Oh, aggiungo, io non ho avuto nessuna sovvenzione dalla stampa locale, anche se qui la sto un po' celebrando, però il giornale locale è uno strumento di compagnia e noi abbiamo bisogno di questa compagnia, perché la solitudine non è per l'uomo e non fa bene all'uomo. Grazie dell'attenzione. Grazie moltissimo Arnaldo, grazie moltissimo Peter, grazie moltissimo a Lorena. Se non trovi subito la badante, bussi alla porta accanto. Provvedo a parte per ho detto la badante. Spero che mi porti il giornale da leggere, se no spero che me lo legga. Ecco. Detto questo, un paio di veloci postille a quanto ho detto e sperando di non dire cose troppo ovvie rispetto alle cose che sono state dette da Lorena e da Arnaldo stesso. Innanzitutto credo che il libro un po' in giro ci sia nelle librerie. Io sono stato di recente in una libreria del centro di Bolzano e l'hanno tirata fuori da un cassetto sotto come se l'avessero messo chissà, mi è un po' dispiaciuto, ho un solo figlio, come dire, genetico, e il figlio di carta mi sembrava un po' come dire, sottovalutato, però magari lo trovate. Comunque presto organizzeremo una seconda presentazione dopo quella di cui ancora ringraziamo questa sera qui al Circolo della Stampa in via dei Manga, e in quell'occasione penso che l'editore Curco, che comunque è stato molto corretto nei nostri confronti, organizzerà un banchetto per distribuire o vendere alcune copie. Per quanto riguarda poi in generale il discorso della solitudine eccetera, ecco, difficile dire delle cose in più rispetto a quanto ha detto Arnaldo Longhi. Personalmente ho fatto un po' più di fatica, per motivi anche se volete anagrafici, a lavorare a questo libro la scorsa estate e lo scorso anno, ma ho avuto come supporto l'attenzione del Dipartimento Cultura dell'Assessorato della Cultura Italiana, che nel frattempo ha cambiato titolare. Confido che il nuovo titolare sia altrettanto attento, anche perché si troverà a lavorare con professionisti molto corretti e molto preparati nell'ambito dei suoi uffici. E l'altra cosa è proprio questa GCOM. La GCOM è un'agenzia che è nata da pochi decenni, è un'agenzia indipendente che sorveglia tutto quello che non va nella comunicazione, mettiamola così. Talvolta lascia correre, altre volte si arrabbia e qualche volta ancora si documenta. Io sapevo di questo studio perché, come dire, sono sempre meno quelli che fanno il mio mestiere, per cui sapere che alcuni studiosi, alcuni giornalisti stessero lavorando sulla comunicazione in Italia, soprattutto per quanto riguarda la stampa locale e le televisioni, come dire, era una cosa che ovviamente nel giro si conosceva. Avere avuto un po' di conforto vero, non le telefonate così alle 9 di sera, ma concreto, scientifico, professionale, dal Dipartimento di Vederronco e da AGCOM, è stata una bella cosa, decisamente. L'unica cosa che un po' mi rammarica, e spero di rimediare o sulle edizioni locali del Corriere o su Salto, o se mi sono già messo in fila sulla lettura del Corriere della Sera, è quello di capire un po' meglio, sulla base di questo libro introdotto magistralmente da Quinto Palaver e arricchito da tutti gli interventi che vi troverete, sono essenzialmente interviste. L'unica cosa che ancora mi manca è quella di confrontarmi con questo librino scritto da Lorena e da me con i responsabili della casa editrice Atesia. Come ho dichiarato in alcune occasioni, non ho difficoltà a ripeterlo qui, la famiglia Ebner non ha commesso alcun reato sconcentrando giornali sotto le proprie ali, perché sarebbe noioso, magari non lo spiegherei neanche bene. L'ordinamento locale che riguarda la concentrazione editoriale è differente dall'ordinamento nazionale, e quindi la tesi ha ritenuto di acquisire una serie di testate e adesso ha un patrimonio editoriale. Come sapete, Tesa non è soltanto giornali e non è soltanto editoria in generale, e comunque insomma, quindi da questo punto di vista io ritengo corretto e assolutamente non incongruo che al recente importante anniversario della casa di Licea Tesia, qualche mese fa a Merano, si è intervenuto per salutare e fare gli auguri con un Ave Scute molto, molto teutonico il Presidente della Repubblica Italiana. Mattarella è uno di quelli che vi prego di seguire, perché è uno dei pochi che continua a ripetere che i giornali in Italia vanno tutelati e chi ci lavora pure. Il problema non sono i virus dell'influenza o di più o meno pesante. Il problema è che ci sono delle forze politiche che ritengono che i giornali siano, che i giornalisti siano delle puttane, o che siano degli incapaci, o che siano ancora dei prezzolati. Tra costoro non esiste una persona, tra coloro che hanno detto queste cose non c'è una persona seria. Se andate poi andate a trovare la biografia attuale, quella prima dell'entrata in politica, non ce n'è uno o una che possa guardarci in faccia e come dire, reggere il nostro sguardo di cittadini che credono nella espressione democratica delle opinioni e in una stampa che tuteli qualunque opinione. Perché allora abbiamo pensato che la prima presentazione avvenisse con l'amica dottoressa Trevisan e con l'egida e le ali della Società della Cultura Italiana della provincia e di Agicom in modo un po' più indiretto? Perché pensiamo che questo libro non possa fermarsi a dove si è fermato, cioè al racconto dei giornali di carta, e speriamo che altri ricercatori, altri giornalisti, noi ci candidiamo, vediamo se, come, perché, ma anche altri ricercatori possano arricchire questa ricerca e arricchire questo modo di raccontare questo territorio. Diceva bene prima Günther, e sto finendo, dopo un excursus storico devo dire francamente lucidissimo, come sono abituato a sentire quando intervisto Günther Pallaver in altre occasioni. E ci sono alcuni giornali che hanno raccontato i primi decenni dal dopoguerra del 1945 in poi questa terra, e poi ci sono alcuni giornali che, compresa l'autonomia naturalmente, no? Che è una specie di grosso totem, due, tri, trifacciale, che noi comunque conosciamo abbastanza bene, abbiamo subito un po' e magari anche ne abbiamo anche potuto godere in altre circostanze. Poi ci sono, raccontava Pallaver, alcuni giornali che sono arrivati come figli dell'autonomia, e ha citato naturalmente per esempio le edizioni locali del Corriere della Sera e altre cose. Io vorrei finire dicendo che questa cosa che questa terra è culturalmente così ricca, anche se piena di contraddizioni, mettetela laggiù come volete, sta attecchendo. Qualche giorno fa, quando ho proposto alla settimanale culturale del Corriere, con cui, come qualcuno sa, collaboro ormai da anni, uno spettacolo di qui, e la nuova produzione del Berliner Ensemble, il teatro di Bertolt Brecht, dopo un veloce consulto a Milano, mi è stato detto: il Berliner Ensemble ci sarà tempo, adesso fai la cosa locale. Ed si trattava della nuova produzione lirica della Fondazione Haydn. Quindi i giornali cominciano a chiedersi anche nelle redazioni nazionali che cosa sia questa terra sul piano culturale, come si sviluppi, e questo è merito dei miei colleghi che invece che scappare a Roma o a Berlino, come ho fatto io 40 anni fa, sono rimasti qui, hanno fatto un lavoro egregio nei giornali. Adesso tocca a quelli più giovani e vediamo come va a finire. Ma in una società liquida credo che i miei giovani colleghi sappiano nuotare molto meglio di me, e quindi mi auguro che ce la faranno. Grazie. 50 anni di lavoro alla mia biblioteca, io avrei piacere che tu venissi. Benissimo. Ecco, sì, se volete, così. Si parla di stampa in madrelingua italiana e tedesca, e a questo punto mi viene il dubbio, il ladino, c'è qualche cosa che riguarda i ladini? Allora, francamente, oggi si parlava della stampa di lingua italiana. Comunque c'è anche qualcosa in ladino, non c'è un quotidiano, ma c'è un settimanale, Lus Tiranis. E poi ci sono una serie di opuscoli, c'è la radio, la televisione, anche i ladini hanno la voce, ecco, appunto la RAE, radio e televisione, molto importante. E poi penso anche che soffrano meno di solitudine i ladini. Beh, con tutti questi turisti che arrivano, non sono da soli, insomma. Benissimo. Io volevo... Parli forte per piacere, che mi sono meglio suono come tale. Ho una domanda per il professor Pallava. Volevo chiedere se poteva brevemente, se possibile, caratterizzare i principali punti di differenza tra la stampa pluralistica, mi sembra definita, che è la contrattivistica. Sì, sì, allora in questi sistemi ci sono quattro variabili. Tra cui appunto la commercializzazione, la politizzazione, la popolarizzazione e gli interventi dello Stato. Allora, per quanto riguarda la cosiddetta commercializzazione, significa che sono paesi dove la stampa di massa si è presentata molto presto. Questo lo troviamo appunto nei paesi centrali europei, ma non in Italia. Poi abbiamo questa politicizzazione, cioè quanta autonomia hanno i giornalisti rispetto ai partiti, alla politica. Poi abbiamo il terzo elemento, che è quello del professionalismo, significa sempre il ruolo del giornalista e la sua professionalità, sia per quanto riguarda la politicizzazione. È molto più alta nel sistema mediterraneo che quello centrale europeo, e la stessa cosa vale anche per il professionalismo. Alla fine poi è l'intervento statale, che in Italia, per esempio, come paese mediterraneo, è più alto di quello, per esempio, nei paesi del centro europeo. Questo era proprio uno spot, insomma, no? E vediamo che queste cose in Alto Adige, sia per la stampa di lingua italiana che tedesca, sono praticamente uguali, perché abbiamo la stessa cultura per quanto riguarda la commercializzazione. Tra la stampa tedesca e italiana non c'è grande differenza, la stessa questione anche per la politizzazione, la parola che riesco ad esprimere, la vicinanza della politica verso me era comunque eventuale, sia in lingua tedesca che in lingua italiana, anche la professionalizzazione è più o meno uguale, e ovviamente siamo in una terra autonoma dove anche l'intervento dello Stato, che adesso è provincia, è abbastanza rilevante. Perciò allora, quelle differenze che troviamo tra i sistemi mediatici mediterranei o appunto democratici cooperativistici o liberali, qui in Alto Asia non esistono, o non esistono quasi, insomma. Sì, vorrei intervenire su un paio di aspetti che, grazie, secondo me dovrebbero essere meglio focalizzati. L'arrivo del giornale Il Giorno in Alto Adige non fu un arrivo per scelta dell'editore, Cioè, l'editore non vide sul mercato dell'Alto Tesino la possibilità di un'espansione delle vendite. Tutti ricordiamo che Il Giorno era una testata del gruppo Eni. A quel tempo il gruppo Eni era presieduto da Enrico Mattei, legatissimo da amicizia con Alcide Berloffa. In quegli anni l'Alto Adige era un giornale, direi, monopolista nel mondo di lingua italiana, così come è stato il Dolomiten per tantissimo tempo nel mondo di lingua tedesca. L'atteggiamento però dell'Alto Adige nei confronti dell'autonomia che si andava delineando, che si andava scrivendo, era di interpretazione della parte più conservatrice della popolazione di lingua italiana, se non addirittura tendenzialmente ispiratrice di un certo atteggiamento conservatore. Da qui la richiesta di Alcide Berloffa a Enrico Mattei se era possibile avere una pagina diversa, che aprisse un modo diverso di interpretare i fatti che stavano via via crescendo in sostanza. Mattei aderì alla richiesta e Il Giorno comparve con un inserto sul primo giornale, con l'inserto delle pagine riferite a Bolzano. Addirittura era possibile reperirlo presso le pompe di benzina gratuitamente. Qualcuno ricorderà anche questo episodio. L'altro aspetto che secondo me andrebbe anche focalizzato, la successione dei due giornali post statuto, Il Mattino prima e Il Corriere dell'Alto Adige, sono posti come una continuità uno dell'altro, almeno forse interpretando in modo sbagliato, li ho letti così nella presentazione. In realtà ho trovato invece io una grossa differenza dal punto di vista dell'impostazione proprio rispetto alla politica. Direi molto più conservatore Il Mattino, direi molto più aperto da un certo punto di vista il Corriere, pur restando, è vero, critico per determinati fatti, però perfettamente calato in una realtà autonomistica. Una seconda cosa, l'influenza dei giornali sulla politica. Per lungo tempo l'Alto Adige ha avuto una certa influenza sulla politica. Devo dire che il Dolomite ne ha avuta molta, molta di più. E devo dire che dal mio punto di vista, ravvicinato ai colleghi di lingua tedesca, se posso usare un termine forte, la prima pagina del Dolomite, nei certi commenti, faceva tremare i colleghi della Volkspartei, fino al punto di cambiare perfino atteggiamento. Delibere assunte mesi precedenti venivano revocate come se niente fosse. Questo non l'ho mai visto come conseguenza di una critica alla politica da parte dell'Alto Adige. Grazie. Bene. Basta, voi si è detto tutto praticamente, si è detto tutto. Posso anche essere smentito, Arnaldo. Vuoi dire qualcosa tu? Io ringrazio molto, scusatemi. Mi sono dovuto assentare alcuni minuti, chiedo scusa, anche qui confido col vostro sollievo, ma ringrazio molto coloro che sono intervenuti, soprattutto questo signore, che credo sia un collega che è intervenuto testé, come direbbe la mia maestra di tre elementari di via dei Vigneti a Meran, perché in effetti il rapporto giornale politica, così come l'ha raccontato, l'ha analizzato, l'ha raccontato Günter Pallaver, è stato pieno di nuance, di cose, anche un po' di allusioni, anche un po', no? Anni fa ci circolava la battuta che non si capiva bene se il Dolomite fosse il giornale della Volkspartei o se la Volkspartei fosse il partito del dottor, insomma c'era un intreccio bizzarro. Posso registrare che adesso i giornali magari si potessero comprare distributori di benzina, compresi quelli di elettricità, no? Compresi quelli per le macchine elettriche, aggiungo. I giornali in edicola sì, sono in caduta libera sul piano delle copie, ormai tutte le rilevazioni sulle copie che vengono lette riguardano soprattutto le copie elettroniche, che sono accettabilmente in ascesa, ma ancora molto poche rispetto per esempio ai ricavi pubblicitari, che sono comunque una cosa importante. E poi c'è anche una crisi di credibilità generale, per esempio delle leadership dei paesi europei. Pensate ai risultati plausibili che saranno ottenuti dai partiti per le elezioni europee, l'influenza dei giornali e così via. Sicuramente i giornali servono. Mi rivolgo soprattutto alle signore. Tom Hanks, che è un attore molto bravo, ha registrato, come credo sappiate, uno spot per la Washington Post, che è il giornale che ha mandato a casa il signor Nixon, che ai tempi era presidente degli Stati Uniti. Lo scandalo principale fu lo scandalo Watergate, ma ci furono anche altre cose che Nixon e i suoi non fecero molto bene, tanto da farsi cogliere con le mani nella Nutella. Ebbene, Tom Hanks in questo video, che è stato mandato in onda in una pausa della principale finale, della finalissima di Super Bowl negli Stati Uniti, che è uno sport che principale sport molto seguito, la voce di Hanks a un certo punto ripercorre il ruolo dei giornali, ricorda che molti giornali vanno avanti grazie a degli editori che hanno, come dire, conoscono le proprie responsabilità, ma soprattutto ai giornalisti che sanno fare o provano a fare bene il loro mestiere. E uno dei riferimenti, come dire, dialettici di questo testo che Hanks legge per fare la colonna sonora a questo video della Washington Post è perché la conoscenza ci fa decidere. Da quanto tempo la conoscenza sui giornali non ci fa più decidere? O ci fa decidere in modo più stiracchiato o inutile. Certo, cioè ci sono dei ministri anche di primo piano che vanno in giro con un set di giacche differenti e che pensano ancora di essere in campagna elettorale. Adesso non vorrei essere troppo buono, ma io sorrido anche di fronte a queste cose, perché ci sono delle cose in ballo, lo verificheremo nei prossimi giorni anche per quanto riguarda la grande vicenda dell'immigrazione, ma non soltanto. Insomma, poi in tutto questo un ex protagonista della politica italiana ha scritto un libro per Marsilio, adesso ha detto ma potrei anche tornare. Quindi c'è un groviglio di cose, e dice bene Altan sul giornale principale concorrente del mio: adesso abbiamo la matassa ma senza bandolo, e se ci servisse ancora un bandolo va cercato anche nei giornali locali e non soltanto nei giornaloni, che pure stanno facendo, credetemi, un grande sforzo per andare avanti cercando di non sbagliare troppo. Grazie.